Sono precauti gli effettuali controlli di sicurezza e vi recate a restare l'imbarco. Attention please, passengers are ready for the come fly with me, let's fly away.